E invece Polluce era figlio di mortali, perché era figlio di Tindaro, appunto del re di Sparta, e di lei da lì. Perché lei si avrebbe avuto questo rapporto multiplo, diciamo, con l'amante e con il marito legittimo. E col marito, esattamente, esattamente. E da questo rapporto sono state deposte due uova che contenevano due coppie gemellari. Un'altra molto famosa c'era dentro queste uova, Elena. Sì, esatto, esatto, esatto, di cui conosciamo, diciamo, come dire, le capacità di creare situazioni abbastanza tormentate. Una covata importante, diciamo. Una covata molte battaglie. Una diciamo covata così. Molte battaglie. Ma Il problema, l'elemento principale è che da una parte il DNA metà in comune, e dall'altra parte però io credo, non credo solo il DNA, ma anche la comunanza di formazione e di valori, perché questo poi il mito ci comunica, e rendono le persone quasi o senza il quasi inseparabili. Senza dubbio. E succede questo, che in ognuna di queste uova i due gemelli erano uno, diciamo così, immortale, in quanto figlio di padre divino, e l'altro mortalissimo. Come e questo tutti noi. Come noi. E quindi ci fu una battaglia. E in quella battaglia Polluce fu protetto da Zeus e quindi non venne ucciso. Invece Castore fu ucciso, e a quel punto dovrebbe arrivare il momento della separazione. Ma l'immortale Polluce dice: se devo separarmi da mio fratello, io rinuncio all'immortalità. E quindi chiede a Zeus di non separarsene. E Zeus arriva a una specie di compromesso, diciamo così, accetta questa richiesta, però per metà anno saranno nell'Olimpo e per metà anno nell'Ade, agli Inferi, un giorno e un giorno, diciamo così. Ed è bellissimo il racconto, perché quando Zeus dice: tu sei mio figlio, ma se hai questo desiderio di star vicino a tuo fratello dovrai rinunciare all'immortalità, lui non ha un'esitazione, non è che ci pensa o si prende tre giorni per la trattativa, non ha un'esitazione e dice: se è questo il prezzo pur di richiamare in vita mio fratello, che tecnicamente, secondo la lingua italiana, e questa è una cosa un po' più spiacevole, sarebbe un fratellastro. E sì, questa è un'espressione molto particolare, sì, perché insomma denota sempre una parte di negatività quasi. Insomma, forse dovrebbe o andrebbe cambiata o andrebbe in qualche modo cambiato il senso che le si dà più generalmente. Anche una sorellastra, quindi posso capire, perché tra l'altro i miei genitori sono separati, mio padre è risposato, ho una sorellastra. Però insomma sorellastra non è bello da dire, non rende l'idea. Allora ti domando, Teodoro, anche in Grecia, Teodoro Andreadis, scusa, so che ci tieni al tuo nome completo, anche in Grecia l'espressione è analoga, ci puoi dire nella lingua greca come si dice, proprio facci sentire il suono e come lo tradurresti? Ma eteros alis adelfos o adelfi, e comunque l'idea che rende è sorella o fratello da madre diversa o da padre diverso, e non c'è questa accezione negativa di sorellastra o fratellastro. Credo sia una questione da riconsiderare, visto che in Italia i linguisti, e non solo, si occupano, se si dice ministra o ministro, insomma direttora o direttrice o direttore, forse anche da riconsiderare questa espressione qui. E dal punto di vista demografico, quando tu andavi a scuola, per esempio, erano tanti i bambini, le bambine in questa situazione, o c'è più possibilità che un tuo figlio si trovi nella situazione di avere dei quasi fratelli o delle quasi sorelle, se non vogliamo chiamarli fratellastre e sorellastre? Ma guarda, io sono un caso particolare, perché sono andato a scuola qui in Italia, però quando sono andato a scuola qui in Italia negli anni 70 e 80 già era strano essere figlio di genitori separati, quindi figurati di famiglie allargate. E sta sicuramente crescendo sia qui che in Grecia, e io credo che sia un bene sia per le famiglie etero allargate che per le famiglie gay allargate, perché la famiglia in realtà secondo me è una, allargata o non allargata o ristretta. Quello che conta sono la solidità e la profondità dei rapporti, quindi spero che lo si capisca sempre di più, sia qui che in Grecia, e non è un caso che sono i due paesi che ultimi